Attenzione, 10, cambio, cambio. Ho la prova, prove tecniche di trasmissione. Quali tecniche di trasmissione stai facendo? Si può sapere. Ecco che ha abboccato. A lei. Così tu dici che io abbia abboccato? Se volevo non ti rispondevo. Aspetta. Vieni, via, Gallane, sono appena uscito dalla doccia. Oia. Qua come di Luca, mi. Ciao Natali, Franco sono, ciao anche a Gianni. Ui Franco, ciao, buonasera, dai. Ciao anche a te Natalino, ben sentito, dai. No, stavo facendo le prove perché ogni volta che io entro controllo sempre le stazionarie, domani. Controllo sempre tutto, se la cosa è gradevole o meno. No, io parlo che il signor Soccorrem è un bel altissimo, addirittura disturba anche un po' voi, che avete dei segnali molto importanti, da. Come va questo QRM? A me, questa antenna per il QRM non è più, anzi mi stavo preoccupando l'altro giorno, non sentivo nulla. È attaccato, l'antenna è attaccata alla pompa di calore, quindi di conseguenza mi porto via tutto. Ah, ecco, quello è allora. Tu ce l'hai sul tetto, è libero, dai. Vabbè, Natali. A me stavi dicendo che non stavo seguendo, a chi faccio la televisione, che è alta. Mia moglie se non mi rompe le scatole, no. Non ti ho conosciuto per quello. Ehi, Franco, sono Natali, Franco. Mi hai sentito dopo tanto. Ciao, ciao. Mi hai sentito anche a te. Era ora che rientrassi, dai, da molto ci sei. Sono entrato adesso quando ho sentito a Gianni. No, dico, in frequenza, sei rientrato da molto? Sì, un mesetto, là. Ma l'antenna l'hai spostata per caso, no? Sì. Si è spostato l'antenna? No, così è sempre. Lo sposti, no, che è un macello. Se no me l'avrei messa come quella di Gianni. Capito? E che viene male a smontare questa qui. No, perché l'altro giorno passato mi sembrava di vedere un'antenna, ma forse era il palo di un'antenna di televisione, forse da lontano mi ha ingannato un po', eh. Avanti già. Ehi, quella d'antenna si vede bene, dai, facciata, bruciata. Però si vede passando sulla strada. È interno, nel vicolo, là. Calma. E la tua si vede da lontano? La mia? La mia si vede dal monte di su. Perché diciamo se capita la guardo, dai. Se sono in zona magari. Ehi. Si vede da tutte le parti, Basta che ti metti in piazza della Meridiana, la vedi proprio perfettamente. E dov'è questa piazza? Via Amore, se ce l'è presente. E lì facciamo le analisi noi. Proprio da, come si chiama? Meridiana si chiama quel laboratorio. Eia. Sì, è dottore del lavoro, anche dentista, però come dentista non serve a nulla. È un bel strano come persona, comunque. Ci mandano lì a fare sia il drug test, le tossicologiche, dai, che le analisi del sangue. Cosa c'è? Si vede un sembra un po' impacciato, non lo so. F o gritro. Avanti il break. Bacino. Hai sentito anche a te, dai, in compagnia di Natale da Gianfranco. Franco, l'hai sentito l'UFO grigio? No, negativo. Lo tiro fuori solo se ho QRM0 perché arriva molto basso qua. So che c'è un portatile. Sì, si è col portatile. Natali tu lo tiri fuori. Natali. Distratto dalla televisione. Vabbè, riprendi l'UFO grigio, buonasera a te, dove sei? Dove ti trovi oggi? Sei a casa? Ecco. Infatti l'ecco ce l'ho messo, dell'apparecchio. Ma non risponde, Natali, ci sei? Ma si è messo l'attalizio. Franco, e allora questa antenna quando si decide a metterla sul tetto? Lei che lo sa, non lo so. Sicuramente come dici tu la resa sarà ottima sul tetto. Già ha cambiato un sacco, tipo alle punte arrivavo a Santiago 5, adesso arrivo 9, 9, 5, figurati quanto ha cambiato. Solo modificando il tipo di antenna, senza spostarmi da quel punto. Comunque salutami un po' grigio, mi dispiace che oggi non riesco a tirarlo fuori. Sono un una favola questa antenna, ma guarda. Costa, perché costa, io ho preso l'originale, non l'ho tu costruito, ho preso l'originale, perché costa. No, è un'antenna che mi sta soddisfando, mi sta dando soddisfazione. Ma poi è leggera, senza radiale, i burracci non me ne facciano più radiali. Sì, se pensi che senza radiale, eppure c'è un'ottima ricezione. Io quando l'ho fatta sono rimasto subito soddisfatto. Non so che resa possa avere questa antenna che ho fatto io, che guadagno possa avere, però ripeto, funziona veramente bene. L'unica cosa che dovevi usare erano tubi elettrici, perché è fatta in PVC, non è fatta come l'hai fatta tu con l'antenna, con la canna da pesca, è fatta in tubi di PVC, praticamente inseriti uno dentro l'altro. E con gli spacchi dove c'è la giuntura tra un tubo e l'altro, c'è degli spacchetti, tre spacchetti, e vi metti la fascetta. E il PVC dura molto di più della canna da pesca, che si vetrifica, capito? Io ho speso, anzi la canna me l'hanno anche regalata, non sono speso nulla, un po' di cavo, dai, che poi potevo usare anche cavo migliore, ho usato un RG58, potevo usare anche cavi superiori, quindi sicuramente andrebbe anche meglio. Fra, io sono da anni che uso l'RG58U, e non mi ha mai dato nessun problema, avevo 17 anni del RG58, che tutti dicono che si fa nero, che qua, niente, l'ho tagliato ed è buonissimo come cavo. Non si è rovinato nulla, ti dico la verità, è un cavo che a me mi ha sempre soddisfatto, non posso dire niente, quindi va benissimo con l'RG58, non ti preoccupare. Sì, no, ma dico, ci sono altre case che hanno qualche perdita, un po' di perdita in meno, capito? Io l'ho comprato, mi sembra la GBC, nuovo, oppure ho visto il mio, il vecchio, l'ho fatto con lo cavo mio vecchio, che c'era molto rame rispetto a quello che ho comprato lì, capito? Era un po' di cattiva fattura. L'H155 che è quello che ha la stessa sottigliezza delle 58 ed è un cavo con un'ottima ricezione e trasmissione, e non ha perdite. Sì, ci voleva quello, dovendo fare un'altra userei quello lì, e poi il 213 per fare gli stub e il condensatore, ho usato nell'ispezione di RG213, che è leggermente più grosso. Kappa, mi adesso la deve fare Luca, l'antenna così, la deve fare un amico, e se la mette anche lui a casa della ragazza, così almeno può modulare quando è a casa della ragazza, sì, la vicina l'ammazza che non è da diretta. Kappa, dai, rilancia il lupo, se lo senti. Cosa? A rilanciare il lupo grigio che è un po' in parcheggio. Ehi, lupo grigio, io esci da casa, esci dalla stalla e fatti sentire. E lì fatti l'antenna. Ho capito, aiuto, devi fare gli onori di casa. Lo senti meglio di me? Kappa, Fra, hai sentito? No, l'ho sentito a te. Ha detto che ti sente più forte di me, come fai a non copiarlo? Cosa ti dica, c'ho il QRM che è Santiago 3, lui in genere arriva su Santiago 1 e quindi lo copre, capito? Purtroppo non riesco a tirarlo fuori. Non ho capito. E questo non te lo so dire, Fra, tu lo copri quando lui va via le Trieste, l'hai mai sentito da via le Trieste col portatile? Mi ricordo che qualche volta ha provato a spostarsi, sì, no, ma se io non ho rumori, anche se sei nel basso riesco a tirarlo fuori, ma purtroppo c'è questo QRM che è fisso. Se metto la banda laterale, mi arriva a segnale 9 il QRM. Qua si deve decidere lupo grigio, mettersi una stazione come si deve, un'antenna sul tetto e un apparato buono, di modo che lo sentano tutti. Già con l'antenna risolve il 90% del problema, no? Ehi, vabbè, se vuoi rimanere rimani, dai, ci fa piacere che sia entrato a salutare, ma oggi sei bassissimo, proprio Santiago 1, Radio 1, proprio basso. Va bene, ti salutiamo allora, buona serata e buon tutto. Grazie per i saluti, se li contraccambiamo. Avanti, Fra. Beh, capo, lo saluto anch'io, visto che mi sente. Una stretta di mano e alla prossima. Speriamo, sperando sempre di riceverlo in buone condizioni, non come oggi. Pazienza, dai. Natalia, ci sei ancora? Io ci sono, ciao, dopo grigio. rischio marciato CE, se no è un macello. E mi hanno rifatto la concessione nuova quest'anno. Eravamo rimasti fermi infatti a quel problema lì. E vabbè dai, no, non avrai una radio squillante come prima, però almeno ci sentiamo, dai. Infatti, è una scatola di fiammiferi, c'è un microfono piccolino piccolino, mamma mia. Non è poi la vita di questo microfono. E poi me lo sei abituato ad altre cose, dai, un po'. Ti dà fastidio ridimensionarti un po', però ripeto, almeno due chiacchierate, due pensieri ce le possiamo fare. Infatti, poi dice che non è male la radio, che c'è bene questo qui. È una radio normale, se anch'io metto il microfono normale, giustamente anch'io esco, così. Infatti, non è amplificata, ma già si fa sentire, là. Non l'hai preso qua a Sassari o l'hai ordinato? No, l'ho ordinato, l'ho fatto venire da fuori. Addirittura Gianni l'ha trovato che costa anche di meno, forse me ne biglionato, così me lo metto in macchina. Che apparato è? Polmar. Il Polmar, io ho il portatile Polmar, da quello la doppia frequenza, da. Capito, no, questo 40 canali AM FM, e andare. C'hai anche l'FM, qui? Non so se l'FM è meno disturbato, buh. Non lo so. Mamma mia, oggi non ha giocato al vivo. Ma sto uscendo dalla doccia, mi sto uscendo e ho acceso a vedere se c'era qualcuno. E ho sentito a Gianni, ho sentito. No, io ho acceso anche prima, ho acceso per far scaldare un po' la strumentazione ogni tanto, ma non c'era nessuno, ho fatto un paio di chiamate e non c'era nessuno. Quindi ho lasciato acceso e ho sentito anch'io chiamare a Gianni, dai, ripeti già. Scusate un attimo, vi chiudo la finestra che c'è freddo. Ehi, capo. Anch'io sono, ogni tanto accendo, ma ripeto, c'è sempre poca gente. E piano piano già si fanno sentire adesso. Dici? Come vedono il canale occupato, già entra qualcuno. È stato Giulio, Claudio, in questi giorni. No, capo, l'altro giorno c'era Claudio lo stesso, sì, Giulio, ogni tanto già ci sentiamo. Che dovevo dire? No, anche il segnale tu mi sembra sempre buono, qui sei sul più del 30, quindi è un ottimo segnale, come prima, dai. Non ho toccato niente, 4 watt, è sempre andando, sempre che lì dia 4 watt, Non hai strumenti per controllare? No, ne ho e non c'ho nulla, anche il rosmetter mi hanno sequestrato. Che vuole anche quello marcato CE, se no non lo vuoi dire. L'alimentatore mi stavano portando via, meno male che quello era marcato CE e non me l'hanno toccato. Io adesso sto usando l'alimentatore di quelli da tipo quelli a computer, come si chiama, quelli switch. Ma ti dico che va bene, è un 12 o 13 ampere, va meglio di quel barradone che c'ho vecchio, un classico, dai. Anche io c'ho uno switching. Ma quelli sempre quelli piatti? Sì. Questa è roba tolta da computer, mi capito? E già va bene lo stesso. Ma cazzo che va bene, non scalda, piccolino, non occupa spazio, non ha problemi di alternata, niente, sembra che vada veramente bene. L'unica cosa è che è grezzo. Oh, neanche si vede, rimane dietro l'amplificatore, ma manco si vede. Oh, oh. No, a me mi piace avere le stazioni con gli strumenti, con tutto quanto, è quello che mi piace, vedere le strumentazioni, capito, accese. Ma molti cosa fanno? Si costruiscono, diciamo, una scatola metallica con delle lamiere già predisposte, no? E poi tu ci metti tutti gli strumenti che vuoi, puoi mettere l'amperometro per avere l'assorbimento, volmetro, quello che vuoi ci metti. E quello ce lo inserisci all'interno. E ti fai trovo costruisci tu un bel alimentatore con pochi euro. Lo so, li vendono dai cinesi, mi pare, è vero? No, questi li ho recuperati. Ah, questi sono recuperati, vabbè. No, ma li vendono anche dai cinesi, così è Natalia. Sì, ma non sono come quelli lì, no? Sono più eleganti, là. Bisogna eliminare dei fili, mi sa, e collegarne solo due. Qua dietro c'è una morsettiera per collegare 1, 2, tre apparecchi puoi collegare, dai. E poi c'è l'ingresso della 220. E poi chiudi tutto, c'è uno sportellino semi-trasparente. E poi l'ho regolato alla stessa potenza dell'alimentatore che usavo prima, li ho fatti uguali con lo strumento, quindi ho lo stesso amperaggio, lo stesso voltaggio. Ho capito, si è fatto tipo un quadro, dai. No, prima ho misurato quanto usciva l'alimentatore, quello per non sbagliare la tensione, e con lo strumento l'altezza l'ho regolato con la freccia allo stesso, mi sembra che sia 13 prima qualcosa, non mi ricordo adesso, comunque è più di 12, dai, è tipo come la batteria della macchina, dai, 13,8, è una cosa del genere, ho fatto uguale, così non rischio, è nascosto, coperto, non si vede nulla, ma è, diciamo, è solo l'interno dell'alimentatore, oppure si è fatto la scatola? No, questo ancora è così, l'ho provato ed è rimasto ancora sopra l'amplificatore, dai. Ho capito. Ai. Vabbè, dai, ognuno si arrangia come può, tutti si arrangiato con pochinile. No, ripeto, anche l'altro, ma questo pesa un etto. Quello là pesa 15 kg, l'altro trasformatore. E da quanti va te? Da quanti ampere? L'altro è un 10 ampere, non è grosso, però è molto pesante perché è vecchia concezione. C'è un trasformatore? Sì, è un trasformatore, quindi c'è un avvolgimento importante. Figurati cosa sarà un 30 ampere di quelli a vecchia concezione, saranno 20 kg. Solo che c'è una cosa, che quelli da 10 ampere di prima ti davano 10 ampere chili. Perché io ne avevo uno della Ital, non mi ricordo come si chiama, Ital Alfa, una cosa del genere, e ti dava proprio 10 ampere, l'ho dato a Franco California, quello lì. Ma neppure io adesso vedi, sto parlando, la luce dell'apparato rimane bianchissima, quindi gli ampere che dice ce li ha tutti, capito? Ne ha più di quello da 10 ampere, questo ne ha 12 o 13 se non sbaglio, dovrei leggere, forse sono 13, e ce li ha tutti, perché sennò si sarebbe abbassata la luce. Se avrebbe avuto più assorbimento sarebbe abbassata, normale. Catalino, riprendo. Io ne avevo uno di quelli di concezione vecchia che dava 40 ampere, ma 40 ne da zia, chi era pure modificato dentro. L'avevo fatto un giochino e da zia. Invece io ce ne ho uno da 50, uno da 35 e un altro lo stesso da 35. Ne ho tre alimentatori qua in stazione. Io quando ero nell'altra casa, non so quanti ne avevo, da 7, da 10, di ogni carità, più quello da 40 che mi serviva per pilotare quell'altro apparecchio che avevo. E anch'io ne ho uno nuovo messo su senza nemmeno usare. E ce l'ho anch'io qualcuno. Quello non è un problema. Però quello da 50 entra in protezione, se gli attacchi troppa roba entra in protezione, capito? No, se gli attacchi, se tu lo accendi con molta roba attaccata direttamente entra in protezione e si spegne. Questo qui lo stesso è così. C'è la protezione. Invece se poi gli attacchi degli apparecchi non rimbazzini, una volta che tu accendi prima l'alimentatore e poi gli apparecchi non gli succede nulla, invece se trova troppa roba attaccata gli succede questo problema. È strano, però non è normale, no? No, è normale. Tipo di alimentazione che è così. E va in protezione per non bruciarsi, perché trova, se tu per dire lasci tre apparecchi attaccati, accendi l'alimentatore dopo si spegne, allora devi aspettare un po', spegnere tutti gli apparecchi, accendere l'alimentatore prima, poi devi attaccare il cartone di biasi. Ed è sempre al trasformatore, un avvolgimento, no? No, non è al trasformatore, questo qui è switching, sempre di quelli switching, sempre, ce li ho tutti i switching, adesso io. E uno solo quello che c'è sull'armadio che non sto usando, che lo uso per provare gli apparecchi quando faccio le prove, e aggiusto qualche cosa, lo attacco con quello, capito? Anche adesso lui l'ho parcheggiato, ce l'ho sotto la mensola, e sto usando questi switching. Adesso vanno bene questi switching. Prima c'erano quelli del trasformatore che erano bisanti un trono. Almeno questi qui sono leggeri come apparecchi. Ti danno un bel ampere e sono leggeri. Questi sono grandi quanto due pacchetti di sigarette, questo che sto usando adesso. Questo apparecchio esce con 20 watt, mi sembra, in AM, con una trentina in banda laterale. E li tiene bene, proprio lo tiene bene. Ma queste hanno più volts, capito? C'hanno diverse entrate, da 12, da 9, da 10, capisci? Dove vuoi, secondo ve lo metti, ti dà i volts che ci sono scritti. Ma questo c'ha il trimmer, capito? Tu lo regoli in base a quello che ti serve. Le uscite sono tutte, o tutte a 12 o tutte a 9, dipende dalla tua esigenza. Beh. Sì, ho capito, ce l'ho anch'io uno così. Anche il mio uno è così, c'ha una manopolina e regoli i boss che vuoi. Un attimo che c'è gente. Via. Natali. Ripetitela. Tanto non entra nessuno. E oggi sono mandroni. Oh, mi sono messo a ridere quando ho visto quella cosa che c'era in quella busta, Natali. Cos'era? Dei nani era quella cosa. Tagliata per quel canale lì. Fisso. È tagliata a bassa frequenza. Anche se te la tira di nani. Se non ti piace così ti la fai più lunga, cosa vuoi ti dici? Cazzo di aro. Così. Che ragazza. Hola. Come mi ascolti con questo apparecchio, Natalino? Ti ascolto bene. Non entra nessuno, c'è qualcuno che vuole entrare per caso, di casa, no, non sia che magari ci vogliono entrare, stiamo sovramodulando chi vuole entrare. Neanche Cucca, c'è, boh. Siamo sul canale 10, frequenza 27075. C'è qualcuno che vuole entrare? Cambio! Io vi sto ascoltando, buonasera a tutti. Niente, come termino di farmi queste saldature, ci sentiamo, dai. Ehi, Giuseppe, cosa stai adattando? Qualche microfono? Sto terminando il microfono di ieri, Ok, dai. Fai pure. Noi siamo qua, aspettando gente, perché è troppo popolato questo canale, quindi andavè, dai, buon lavoro. Avanti. Franco, ci sei? Sì, capo, sono entrato. Non ho capito chi è l'amico che ha bussato. È Giuseppe Tornado. Al capo, quindi è rientrato anche lui, è un vecchio CB. Kappa. Hai visto, quindi a volte ritorniamo anche noi, vedi? A Giuseppe. Sta saldando Natalia, ha detto come termina che sta saldando un microfono. Come termina che entra? Lo ascoltavi bene, Franco? Eh sì, è un... No, non fortissimo come voi, però era un segnale di 5-6, se non sbaglio, così a colpo d'occhio. È una radio di 4, dai. Perché zona è, si può dire? Mi sa zona stessa di 2. E quindi zona alta, dai. Però per me è sempre coperta perché ho tutti i palazzi. E più in basso di te? Lo sai cosa c'è? Che sta usando un antennino bazooka, quindi tipo cosa? Tipo manganello. Ma quelli caricati, dai. Ce l'ha dentro casa, dentro lo studio, quindi ti puoi immaginare come sta uscendo. Esce anche troppo bene, Giuseppe. No, lo sentivo, vedi, sempre meglio di Lupo Grigio, vedi che non ha segnale suo è troppo basso. Lupo Grigio ha paura di mettere l'antenna, l'avrebbe messa, ma dice che forse il condominio poi fa casino, e io ho detto, basta in una riunione condominiale dirlo che devi mettere l'antenna e tutto lì. Io ho raccolto le firme, anche se non doveva essere fatto, però il capo condominio mi ha detto, se per mettere l'antenna devo essere tutti d'accordo, ora vai casa per casa e raccogli le firme e mi fai avere la fotocopia delle firme che ti hanno messo con l'autorizzazione, tu li scrivi un coso una specie invece di richiesta, rifai e loro mettono le firme sotto. E così hanno fatto, l'ho messo le firme e la giubbussa. Poi come l'ho messa ha disturbato subito. E lì abbiamo cominciato a leggere le tedine, quando mi hanno dato la lettera che disturbavo, che questo è quell'altro. E hanno praticamente deciso la riunione condominiale di mettere un tecnico a disposizione. Hanno mandato un tecnico, mi ha controllato infatti che uscivo, poi salito su e ha controllato l'antenna, ha detto basta, ragioneri. C'è l'antenna Fradici, adesso faccio un rapportino, gli dico che c'è da cambiare l'antenna, come ha cambiato l'antenna non nessuno più ha per niente. Ritorniamo al problema lo stesso che aveva Natalino, la stessa cosa, che aveva un'antenna vecchia, magari piena d'acqua, il cavo e cose varie, e prendeva di tutto, di più. Ma non riesce a mettere neanche una bomba neanche questo lupo grigio. Che adesso lui abita al primo piano, lui dove mette l'antenna sulla tetta, c'è poco da fare. Poi è stato all'ultimo piano, la boomerang che l'aveva consigliata, ma al primo piano è circondato da palazzi. E cosa la mette a fare la boomerang? Non esci lo stesso. Io ero così prima, eppure mi sentivano. Meglio dell'antennino del portatile, capito? Sempre meglio. Non lo so, si deve decidere lui cosa fare, perché detto che c'è una riunione condominiale dove va a chiedere. A chi devi chiedere? Se c'è la concessione, c'è un apparato omologato, cosa di Nafuti chiedere? Tu devi farti dare la chiave e piazzarti l'antenna, boh, basta. Certo, vai. Natalino che mi stanno chiamando qua, un attimino di bianco. Ehi, affratto. Non è così, Natalino. Ah, tutti voci, sì. Giuseppe, è finito di fare il trabacchetto? Ci siete? Io già ci sono, Natalino non risponde, ogni tanto si fa bandito. Ma io stavo chiamando la signora che dice che c'era freddo, ho aumentato un po' la temperatura, dai. Non gli basta mai a queste donne. Sono molto freddolosi le donne, soffrono molto di freddo. Cazzo, mi sta dando 22 gradi, adesso l'ho portata a 23. Ma qua ci sono 22 gradi, si sta bene, è la temperatura giusta, là. Poi ci sono certe case che io non posso manco entrare perché il caldo dei termosifoni mi fa diventare rosso in faccia. Ma un caldo da morire. Ma io qua, in genere la forbice si attacca quando scende sotto i 22, 21 e 8, si attacca la porta a 23 e poi si spegne, perché ce l'ho autonomo. O non si sente bene, o c'è qualche cosa, poverina. No, speriamo di no, vediamo se c'è influenza in giro. C'è un'influenza in giro, ogni tanto mi viene i brividi di freddo pure a me, capito? Insomma, è il periodo adesso che è un po' così, Io sono riuscito con la temperatura che c'è in casa a fare nascere gli uccelli, figurati, fuori stagione, che di solito è in aprile che cominciano a fare i canarini, invece con la temperatura giusta e allungandoli la luce e mettendoli quella a LED, sono riuscito a farli nascere, sono già grandi. Non ci vuole incubatrice, niente? No, assolutamente. È la madre che riscalda. No, io ho 21-22 gradi in casa, quindi una temperatura giusta. Poi ho la luce a LED che illumina un bel, di quelle a palla, di quelle lampadine a palla grosse. E l'ho comprata in offerta a 7 euro da Bricome, ce ne sono un bel ancora. La sera la luce che fa? L'ho presa la luce fredda. Ma la luce che fa sembra di giorno. Quante watt? O cosa corrisponde rispetto a una lampada normale? 140 volt, mi pare. 140 watt. La voglia che ne fa luce. 7 euro, ancora no. Già stanno scendendo un po' i prezzi, però ancora sono troppo cari, ma la so. Ho pagato 7,90 euro in offerta, se no costa anche 19-20 euro. Te lo sto dicendo, sono troppo care. Cioè, se pensi che non è venuta, ho detto, Invece l'altro giorno ho preso delle lampadine da Mauris, per usarle qui nella tromba delle scale, per il condominio. E una stava prendendo fuoco l'altro giorno. Allora. No, io le ho cambiate tutte, le ho messe tutte a LED, le ho messe quelle della sala, quella della la cameretta, le altre vabbè ce le avevo già a letto, quelle della camera da letto. E adesso devo cambiare solo quello dell'arditino che c'è tra la camera e l'altra, che è quella lì, quando si fulmina la camera. E così sono Gappuso, e la casa ha cambiato completamente aspetto, quelle del coso, della sala, fanno una luce, prima varia la luce da musso, e così quelle della cameretta, è una luce proprio bella fredda, capita. Una l'ho sbagliata, l'ho presa a luce calda e faceva la luce gialla, non mi piaceva, l'ho tolta. Sì, la luce calda, specialmente all'inizio è quasi arancione, poi è scalda, diventa un po' leggermente più chiaro, invece luce fredda è già bianca di sé. E l'ho fatta comprare anche a Natalino, infatti Natalino mi ha toccato a Marini, ogni volta che l'accendo sembra di giorno, e ce lo grido. E non costa tanto, perché era un'offerta a 7,90, più ripeto, davanti alle casse era, c'era una catasta. Sì, no, già fa buone offerte, Brick, come dai. E quindi piano piano te le stai cambiando tutte, man mano che si fulmino te le cambi. Penso che abbiano anche una durata maggiore. Allora io ti parlo di una cosa, c'era un periodo che tu portavi la plastica, le bottiglie di plastica, al quadrato, e in cambio ti davano delle lampadine, ma non si viene a nulla, capito? Quelle che sembrano tutte attorcigliate, che sembra spirale solo, facevano poca luce, ci avevo tutte di quelle lampadine, perché le portavo spesso la plastica, lavavamo due o tre buste di plastica e ti davano tre lampadine, capito? E proprio quelle lì come si dice, che siamo una trivella, dai, proprio quella lì stava prendendo fuoco l'altro giorno, porca miseria, però comprate da Mauris, sicuramente pagate poco, un paio di euro, 2-3 euro, boh. Ma non vuol dire, magari è riuscita male, magari una su mille. Anche a me ho comprato un saldatore dai cinesi, l'ho attaccato, è esploso. Aspetta, non a LED, però io ti parlo di quelle a basso consumo, non è a LED questa che ha scaldato. Ho capito, quella a basso consumo come ce l'avevo io, solo che era a basso consumo e faceva anche poca luce. Ma questa che è la forma delle scale, non so, paragonata a un 60 watt, che va bene, giusto per non devi illuminare a giorno, però andava bene. Qui per il condominio, e però questa qua ha iniziato a scaldare tra il vetro e la plastica e stava uscendo già il fumo, ormai ce ne siamo accorti, sennò vabbè, non sarebbe successo nulla, però avrebbe sciolto la plafoniera magari. Poi ce ne sono tipo una molla all'interno che si fa incandescente, tipo come può essere una valvola, ce ne presenta? Stile antico, che hanno la luce però arancione così. No, ce l'hanno, no, è bianca, abbastanza bianca. L'ho vista da Brico accese, è una cosa, dà l'effetto del fuoco, come se ci fosse fuoco all'interno. Ma non sarà quelle che riscaldano anche, no? Se ci passi vicino ti abbronza pure. Non lo so, sono tipo una molla c'è all'interno, una resistenza dovrebbe essere, che si accende e si fa incandescente. Anche l'altro giorno mi ricordo c'era questa ragazza alla cassa, ma proprio la usava per scaldarsi, gliel'ha messa l'azienda, ed era una cosa del genere. Allucinante. Da Brico. Se non sbaglio era proprio da Brico, non vorrei sbagliare, ma mi ricordo proprio lì, ho anche chiesto. No, questo è proprio per scaldare, mi ha detto, una specie di stufa. Sarò. Inventano tutto, Ehi, guarda che ci sono, sai dove anche, non so se sei mai stato nella chiesa di San Vincenzo. Sì che sono entrato. Purtroppo sì, perché è morto un amico mio, sono andato al funerale. Mi dispiace. All'interno ci sono queste specie di lampade un po' lunghe, quello arancione quando le accendono, ed è proprio un tipo di riscaldamento, Invece la chiesa del Buon Pastore, il riscaldamento parte da sotto il pavimento, sia aria fredda che aria calda, da sotto il pavimento scalda. E lo so, anche quello c'è i pro e i contro, c'è gente che è contraria, perché sì, è bello avere il pavimento caldo perché ci cammina, però per chi soffre di circolazione, gonfiore di piedi, di gambe, oppure chi è allergico, perché tu immaginati che sul pavimento si deposita sempre la polvere e l'aria calda tende a portartela in aria, quindi di conseguenza non lo so, non lo vedo un'ottima soluzione, eh. Vabbè, cioè, se sta sempre lamentando dicendo Muritto che ha fatto cose alla grande, no, grande, no. Poi non ha messo manco una croce in quella chiesa. Boh, io non capisco come faccia a non mettere una croce nella chiesa. Pari una chiesa mormona, non una chiesa cattolica. Ricordami qual è la chiesa? Quella del Buon Pastore, quella nuova che c'è in piazza della Meridiana. Non ho capito, no, forse ancora non l'ho vista quella. No, no. Vabbè, comunque. Gli abbiamo dati i soldi di tutta la popolazione, eccetera, eccetera. Mio padre gli ha dato 1500 euro, gli ho portato la busta, non mi ha detto manco grazie, l'ha presa e buonanotte. Sempre i soldi, dico, vabbè, li conosciamo. Io ho un video di un matrimonio, c'è il prete che prende i soldi, prima da una famiglia e poi dall'altra, ma con una tecnica impressionante, con due mani proprio sembra non lo so, guarda, è da vedere quel video. comunque, ormai già ne fanno cose, poveracci. Però per i soldi, ma stanno sempre chiedendo, non li bastano mai. Quindi, ma il Buon Pastore è praticamente la chiesa, quella che prima c'era qui vicino alla rotatoria. Allora, Buon Pastore era quella che c'è tuttora, dove c'è l'autoparco lì, quella chiesa piccolina che prima in origine era una stalla di cavalli, perché questo me l'aveva detto mio padre, che tenevano i cavalli lì dentro, era una stalla in origine, e l'hanno fatta diventare a chiesa, quella lì l'ha tenuta lo stesso, perché gli anziani dice che non ce la fanno arrivare sin lì, e siccome sono tutti... diciamo erano di quella parrocchia lì, e quindi la tenuta aperta tutti e due, ne apre una e l'altra. Ero rimasto fermo a quella, dove c'erano proprio di fronte alla rotatoria, sì. Mi ricordo portavano anche roba per i bambini lì, accettano abbigliamento, roba così. Ma è un prete particolare, ci sono tutti fuggiti, anche le catechiste se ne sono scappate. Quando dovevo fare la cresima a mio figlio, praticamente l'abbiamo portato, come si dice, l'abbiamo portato a cosa, al Buon Pastore, e voleva che andavamo ogni sera lì. E come fate ogni sera, se stavamo lavorando tutti e due, il sabato sera va bene, ma... E allora l'abbiamo tolto da lì e siamo andati, abbiamo chiesto nulla osta e l'abbiamo iscritto a Sant'Agostino. A Sant'Agostino si andava solo il sabato e l'ha fatta a Sant'Agostino. È così. Mi ricordo, anche quando mi sono sposato io c'era Don Bartoni agli punti, anche lui ci ha fatto fare il corso prematrimoniale, ma sai che a volte ci faceva, non dico perdere tempo, ma quasi, perché a volte non aveva voglia neanche lui. Allora, poi ci mandava via, e qualche volta ce l'ha fatto, però anche quello è passato, Vabbè, il corso prematrimoniale l'ho fatto anche io, ed era una cosa anche interessante, perché intervenivano psicologi, poi sono intervenuti ginecologi, eccetera, eccetera. Era una cosa interessante, era abbastanza interessante come cosa. Poi ci siamo conosciuti molte coppie, abbiamo fatto amicizia, capito? No, ma ha fatto tutto lui, non c'erano ginecologi o cosa hai detto, ostetriche. A me mi ha chiesto se avevo avuto altri figli, se avevo altre donne, se avevo questo, se avevo l'altro. Mi stavo anche vergognando di quello che mi chiedeva, ciclista. Sì, all'inizio, sì, mi ricordo anch'io queste domande qua. Rapporti sessuali, tutte queste cose qua. Ho fatto tutte queste domande, se avevo altre mogli in giro, figli, di tutte e di più. E vabbè. Assad, allora, che questa abbiamo dato, io sto ancora andando. E vabbè. Bei tempi quelli, spensierati, senza figli. Io sto parlando di quasi 30 anni fa. E io lo stesso. Se tu pensi che ho una figlia che ha 27 anni. Il mio di una anno e mezzo, mi sa, 26 è compiuto. Il più piccolo c'ha 18 anni. No, io sono tutto in uno. Sia grande che piccolo, tutto lui. La grande è fuori, sta lavorando fuori. È laureata e tutto, capito? Allora, che stiamo bene, dai. Sta bene, dai, a Bologna, sta benissimo. Benissimo. Laureata in scienze dell'educazione, poi ha fatto la specialistica e adesso può fare la direttrice di comunità, di carceri, eccetera, eccetera. Ha intenzione di rimanere lì o un domani preferirebbe rientrare qua? No, no, ha detto che non ci torna più qua, che qua non c'è avvenire. Lì voglio un posto e trova l'altro. Ha trovato diversi posti, sempre migliorando. Poi c'è lì il ragazzo a trovarla e ha presentato il curriculum per scherzo e l'hanno tenuto a lavorare anche a lui. Allora sta lavorando da cosa? Da come si chiama? Con un negozio abbigliamento. È mara. Praticamente l'hanno anche fatto la proposta adesso, dopo un po' di tempo che c'è, gli hanno rinnovato due o tre contratti, gli hanno fatto la proposta di restare come responsabile del negozio perché hanno visto che ci sapeva fare e gli hanno dato la responsabilità adesso è fisso, capisci? Ma è andato per gioco, diciamo. E invece ormai ha trovato anche lui. Fate, volevi dire Zara? No, che c'è anche Zara. E abbigliamento è Zara, ma ce l'abbiamo anche noi qua, dai. Roba di muratura, cosa vende, ma accessori, bagni e cose varie, là. Sì, è vero, Mara è quello lì, è articoli sanitari, questa roba qua. E vabbè, comunque Zara, c'è anche quasi. Adesso è restato, ci hanno preso la casa lì e adesso Manuela sta andando migliorando, adesso è in una cooperativa, in una comunità di ragazze madri che lavora. In più c'ha qualche notte che fa casa di famiglie particolari, con figli autistici, roba del genere. E niente. È un po' sacrificata perché sta lavorando anche la notte, a volte effettua anche di notte, ma ci sono i guadagni e c'è anche il lavoro fisso, capisco. Ci vuole voi lavorare e basta, dai, poi il lavoro non manca, ma anche qua, anche mia sorella ha fatto un sacco di anni di assistenza domiciliare, ne ha fatto anche lei notti insieme ai pazienti, anche terminali un sacco di volte, mamma mia. Anche mia moglie ha fatto qualcosa un periodo. Mia moglie fa assistenza anziani, però di notte no, di notte fa solo di giorno. E a volte può capitare, dai, qualche esigenza, magari ti chiamano, ma se c'è qualche peggioramento. Sì, ultimamente era San Nicola che ci stava tenendo la donna e gli hanno chiesto anche di fare la notte, perché quella che faceva la notte era in due, quella che faceva la notte doveva partire, cose che hanno chiesto di fare anche la notte, se la faccia, però non normalmente fa di giorno. Sì, infatti quei casi eccezionali può capitare, giustamente. Intanto adesso mi lavoro che c'è quello lì, sono tutti badanti, badanti, queste cose qua vanno adesso, perché prima c'era un diverso modo di pensare, di fare le cose, prima i genitori erano visti come gioielli, non si doveva, io per dire, mio padre l'ho tenuto 14 anni a casa dopo che è morta mamma, io e mia moglie l'abbiamo tenuto 14 anni, ma era un uomo che non disturbava. Non si intrometteva nei discorsi, se non lo cercavi non si intrometteva, usciva e tornava a quell'ora lì a per pranzo, non dava fastidio di nulla, è stato sempre, se fosse stato diverso no magari, ma era un pezzo di mare mio padre. Quindi era indipendente, così è logico, è naturale che sia così. Poi, come dici tu, non sono tutti uguali, a volte ci sono quelli che si mettono in mezzo, rompono le scatole. Ci sono quei suicidi, mamma mia. I miei suicidi erano così. Vitti. Tu questa cosa devi fare così, non devi fare cosa. Anche in casa tua veniva a raccomandare. Qui da poco si sono mollati due miei amici. Mi sembra il bambino ha pochi mesi, siamo proprio sposati da poco. Non vuole sbagliare, ma magari c'era troppa gente in mezzo, come si dice, i suoceri e i genitori si mettono troppo in mezzo, che la coppia appena sposata ha bisogno della privacy, della loro tranquillità, capito? Ah beh, se devono costruire il loro ambiente anche mio socio erano un po' invaditi. Tu pensa che a mio socio gli ha detto che non esisteva Babbo Natale. Questa cosa qua mi ha rotto un bel scatole, perché non dovevano permettersi di fare i genitori, quelli sono compiti dei genitori. Adesso era un bambino piccolo, perché vai a dire certe cose quando i bambini bisogna farglielo credere, se non ha certa età, sono cose belle, dai, è sempre stato così. Certo, questo i genitori decidere quando è il tempo di dire la verità o meno, dai. Anche da poco mia nipotina ha perso il dentino, quindi tutti con Topolino, il Topolino mio, Topolino suo, di zio, e si è fatto un po' di soldi, ma era contenta e felice come una Pasqua. Quelle cose lì lo stesso. Mio padre addirittura me lo faceva legare a un pezzo di spago, il dentino, lo metteva un pezzo di lenza, di coso, perché dice che il Topolino tirava lo spago e se lo portava via, capito? E la mezza non lampava e lasciava nessuno, ma sono le gioie dei bambini quelle lì, no? No, invece a noi mi ricordo, ce la faceva nascondere nel buco di un muro, una fessura di un muro, e tu poi li trovavi i soldini, gli spiccioli, a volte non so, anche qualche pezzo di carta, ma era raro, in genere erano tutti spiccioli. E tu andavi a prendere i soldi, finché c'era il dente eravamo soldi, appena arrivava il dente vuol dire che il topo ha finito i soldi. Tu pensa che mamma se ne ha tutti conservati i dentini, capito? Quando ci uscivano i dentini da latte se ne ha tutti conservati. Se non sbaglio mia madre c'ha anche i capelli di quando ero piccolo, ero biondo come non ti posso dire, va, biondissimo. Idem, che mamma. Un ricciolo di mia sorella che era tutta a boccoli, biondi. E ce l'aveva conservato un ricciolo. Poi con la mia sorella lì è deceduta e sono rimasti i ricordi, dai. Purtroppo. Siamo nelle mani di Dio, non decidiamo noi quando andarcene. E a volte poi spesso perché sono le persone più in gamba che se ne vanno prima. Sì, curarete, c'aveva 4 anni, una peritonite è venuta, allora non è curata. No, non sapevano manco cos'era la peritonite. È morta per una peritonite. Una brutta infezione. E allora, il peritone. E purtroppo non c'era cura allora e si moriva di queste cose. Dalla appendicite passava il peritonite, non è che te ne accorgevi. Anche mia moglie ha rischiato, È nata mia sorella lo stesso, è andata a Usido a trovare un'amica, stavano parlando, e ha detto il padre, Anna ci vai, dice, erano in confidenza no, con questa amica, il padre di lei, questa amica ci ha detto, Anna ci vai a prendere un boccione di vino giù in cantina, e vedi al boccione, ha preso, è sceso giù, non saliva più, sono andati a vedere, l'hanno trovata svenuta, l'hanno ricoverata subito all'ospedale, l'hanno chiamata l'ambulanza, ed era un attacco di appendicite, si stava trasformando. È la stessa cosa che ha avuto la mia compagna, la mia moglie, dai. E fortunatamente siamo qui ancora a raccontarlo, anche se è lei qui a raccontarlo. E vabbè, adesso già si curano queste cose, prima che erano cose particolari, non si curavano queste cose qua. No, io ti parlo, io neanche la conoscevo, quindi era una ragazzina lì, era piccola, io neanche la conoscevo, figurati, quindi è successa 40 anni fa. Lo so, e anche Anna, mia sorella, l'ha avuta che era ragazza, avrà avuto spesso 18-19 anni. No, lei è ancora più piccola, era proprio piccola, una ragazzina, un adolescente, dai. Sono cose che non guardano l'età, no? Quando devi rivedi bene, non guardano se sei giovane, se sei piccola. Una volta ero al pronto soccorso, sono arrivati con questa ragazzina che aveva la bocca tutta storta, e ce l'ho io, e ho detto bussi la porta, che io siccome ho fatto 17 anni di servizio ambulanza mi sono accorto che erano a Parigi, bussi la porta subito, entri subito dentro, e aspetti un attimo fuori. Ma cosa aspetta fuori? Non vede che c'è una Parigi facciale, non lo vede. E l'ha fatta entrare allora, se non faceva prepotenza la lasciavano aspettare fuori. Se l'hanno fatta entrare, era a cavallo, mi ha detto la madre. E come ha preso freddo deve essere. Mi è venuta questa Parigi facciale. E quindi è causato dal freddo. mi ricordo anche io una storia del genere, portata all'ospedale, io non ne cavavano piede. Sai come l'hanno sbloccata? Con l'agopuntura. Sì, una volta che l'ha appunto il ragno a questo ragno, a zecchino, non sapevano cosa fare. Io ero con l'ambulanza, avevo portato l'altro paziente dentro e c'era quest'uomo che era in campagna, l'ha appunto un ragno. Il ragno l'ha visto scappare, quindi l'ha visto che era un ragno. E l'ha detto che era un ragno, ma gridava e si contorceva come una cosa che ti faceva male. Beh, loro non sapevano cosa facciamo, chiamiamo il centro veleni, chiamiamo questo, chiamiamo l'altro, prova a fare questo numero, ma io non lo trovo, ma c'è questo qua che gridava e si contorceva. E che cavolo di ragno poteva essere? Che ne so, un ragno l'ha appunto sotto i pantaloni, e c'aveva la puntura proprio a livello del polpaccio. Adesso stanno andando da poco questo ragno violino, lo conosci? Non è che lo conosca, ma ne ho sentito parlare. So che è un ragnetto piccolino, che è un bel velenoso. Praticamente ti manda in necrosi la carne, capito? Si guasta la carne, va in putrefazione. È tipo quei ragnetti, quelli che vedi negli angoli, mica quelle zampette fini, così. Però sul dorso, se lo guardi, c'è questo disegno che è paragonabile a un violino. Praticamente so che non te ne accorgi subito, che te ne accorgi dopo un po', che ti appunto. È proprio quando già sta facendo l'effetto. Come si cura questa cosa? Bisogna tagliarti la parte. Eh sì, perché poi la parte è morta, non è così, quindi devono tagliare. Secondo dov'è questa amica, anzi la madre di un mio amico, gli è rimasto, tutti rimangono i buchi poi alla fine. Il vuoto ti rimane. Cazzarola. Una cosa. E da dove è venuto questo ragno? Perché noi i ragni velenosi prima mi sa che non ne avevamo. Eppure già parecchio che c'è questo ragno violino. Il figlio di questa signora è anche un appassionato, quindi fa foto, quindi conosce un sacco di animali, insetti e cose varie. E che il fotografo fa anche. E mi ha detto che c'è già da parecchio questo ragno. Chissà come magari è arrivato con legname, le solite cose, dai. Sì, magari trasportando le merci arrivano da fuori, capito? È come gli scarafaggi, ci sono degli scarafaggi che quando io lavoravo ci arrivavano con la merce, gli scarafaggi mai visti in vita mia, marrone scuro e grandi, altro che i nostri, ma enormi. Molte volte abbiamo dovuto mettere la medicina perché li trovavamo a tappeti proprio. Arrivavano con la merce. Sì, arrivavano nei container, con le navi, qualsiasi mezzo, topi, di tutto arriva. Alla fine poi se trovano l'habitat adatto, purificano queste blatte enormi. Io prima mai viste queste blatte. Io questi scarafaggi qua li ho visti uscire dal tombino una volta quando Torres. Questi grandi. E probabilmente avevano anche procreato, perché ce n'erano diversi. Infatti avevano disinfettato tutti i tombini, mi ricordo. Erano dentro i tombini. Ne uscivano dai tombini e andavano nei condomini. Una cosa allucinante. Andavo a fare le consegne e se trovavo nei portoni i tappeti di scarafaggi. Tutti morti dalle medicine, così. E allora la notte li mettevano la medicina e magari prima di scopparli arrivavo prima e li vedevo. Ma pieno lì, disobbedienti, una ventina, roba del genere, e un bel ce n'era. Questa signora mi ha detto che uscivano dei tombini, infatti li avevano tutti disinfettati i tombini a Porto Torres. Chissà da dove cavolo venivano. Ma a Porto Torres con le navi, con le cose arrivano anche tutti, di tutti, di più. E allora, di tutto arriva, di tutto. Chissà, adesso l'unica cosa che sta vedendo forse sono i serpenti, che ancora non abbiamo serpenti velenosi. Anche se ogni tanto si legge qualcosa che è scappata da qualche parte. Speriamo bene, dai, solo quello ci manca. Ma non hai sentito in via Venezia che una mamma ha portato il bambino a giocare in quel parco che c'è? E ha fotografato un serpente, un bel velenoso. Sicuramente qualcuno ce l'aveva in casa e poi si è stufato e l'ha liberato. Ed era tutto attorcigliato a un ramo di un albero. Gli ha fatto la fotografia, chiamate i vigili del fuoco e l'hanno catturato. No, ho sentito quello che hanno trovato da poco scavando per la fibra, E ha trovato questo serpente giallino colorato che c'era sui giornali, sai? Però non era velenoso. E a quanto pare questo serpente o è scappato, tipo è entrato dentro lo scarico del WC e poi tramite le fogne ha camminato e l'hanno beccato loro scavando. La luce No, io ho sentito una storia a Foro. A Foro. E questi muratori, fra l'altro, questa coppia si sono separati. E a lei gli è toccata la casa perché aveva figli minori, quindi gli hanno assegnato la casa. Cosa è successo? Che lei ha restaurato questa casa, e restaurandola sta facendo delle modifiche, hanno fatto un buco. E gli hanno telefonato i muratori dicendo che avevano trovato una valigia all'interno del buco. Cazzo, aperto, lo so, tanti miliardi di vita, amica. I dollari non scadono, capito? I dollari valgono sempre. Non è diventata miliardaria praticamente, non si sa questa valigia chi l'ha messa. Quella signora che abitava prima era una ricona, però non si sa se era la sua, se non era la sua, poi quella è morta, quindi la padrona di casa era lì e lui voleva la metà perché diceva la casa l'ho comprata io, mi spetta anche a me un tanto, invece no, lui quando ha lasciato la casa a lei gli ha lasciato anche tutto quello che c'era dentro e lei non è stata un po', diciamo, buonanima a dargli qualcosa. No, ho sentito questa storia, quindi è fuori il continente, è successo, non qua da noi, da. Vabbè, pazienza, la fortuna. Già poteva dargliela qualcosa, però no. Il tesoro, no, niente, gli ha detto che non gli dava niente, che la casa era la sua, perché era toccata a lei e quindi tutto quello che c'era all'interno della casa era il suo. Non è una fottitura, è quello che diceva il marito. Ma la casa è sua finché non compiono 18 anni i figli, però, non è così? No, assolutamente. Allora, praticamente se un figlio è minore, aspetta la moglie, capito? No, non è sino a quando compie 18 anni, è per sempre. Se non è che hai una moglie come si deve, capisce le cose, si fa una casa con tuo suo e ti lascia la casa, però non sono tutte così. Infatti, sono quelli che si lasciano in malo modo e quelli invece che si rimangono in due rapporti, ci dividono tutto, dai. Ci sono certe donne che sono avide di soldi, proprio vedo, non guardano altro di soldi e basta. Lo so, purtroppo queste cose le tocchiamo con mano quasi tutti i giorni. Sì, io ho amici che ormai mi ha detto io ti invidio a te, questo amico mio, mia moglie mi sta appresso, mi mette avvocati, questo, quell'altro, mi sta facendo uscire di testa la mia ex moglie. Sì. Ho capito. Dice il bello che è lei che se l'ha andata con un altro, non è che l'ho mollata io, se l'ha andata lì con un altro. Eppure dice mi sta facendo passare le pelle dell'inferno. È così, a volte sono anche troppo tutelate, danno sempre, quasi sempre ragione alle donne. È vero. Io ho trovato un giudice praticamente che era donna. Era donna. E mi ha detto, lei è un uomo fortunato. E perché? Perché sua moglie gli sta lasciando la casa. Ha detto, vabbè, la casa l'ho pagata io, non è che... lo so, ma c'è un figlio minore. Se fosse stato un altro l'avrebbe mandato in mezzo alla strada. È proprio così. Sono tutelate al 100% quasi, anche se qualcosa sta cambiando. Io ho trovato una donna che sapeva ragionare, che non mi ha voluto lasciare in mezzo alla merda. Si è comprato una casa anche lì e via, basta. Tutto fatto. Io l'ho aiutata con passi mobili e ci siamo messi d'accordo così. Ma meglio di così. E mi sono felice con te. A meno che rimani amici e tutto, giustamente. Rimarrà sempre parte della tua vita. Certo che sì. Poi magari le cose cambiano. non ci si vede più come prima, però io con mia moglie, con la mia ex moglie ho ancora buoni rapporti, viene a pranzo, io vado a casa sua a pranzo volte, ma siamo rimasti amici, dai. Un esempio per tante altre coppie, ma tanto è inutile bisticciare, capire, è inutile, se una cosa è finita e basta, non è che uno può pretendere, come fanno certi che pretendono che si viva l'amore a vita e ammazzano magari la sua compagna perché gli ha mollato. Bisogna farci una ragione e via, non è che devi fare. Ma lui stava ascoltando qualcosa, cosa è successo al Ghero? Che hanno ammazzato questa tipa che era la nascosta non so dove in campagna e continuava a usare la sua tessera, il suo banco, matto. Ah sì, l'ho sentito anche io quello. Era già un ergastolano, era praticamente in libertà vigilata, cosa, perché aveva commesso un altro omicidio, adesso quando mai tu lasci libero un tipo che ha già commesso un omicidio. Come si fa? Infatti ho letto un commento, ma questo dice non doveva essere in galera. C'aveva l'ergastolo questo qua. Con l'ergastolo lascialo lì. Ha una legge proprio di cavolo. È una persona pericolosa. Se ha fatto una cosa del genere una volta lo può rifare. Quindi cosa vai? Lo liberi. Va. Lo sai cos'è? Che c'è poco spazio nelle carceri. Allora cercalo sempre di far evacuare il maggior numero possibile di tenuti. Ecco adesso, prima se ne è negato, poi piano piano ha confessato e li ha portati anche nella campagna dove l'aveva nascosta. Sì, ma ha detto che lei si era suicidata e lui l'ha spostata, non che l'ha ammazzata lui, ha detto lui non l'ha ammazzata, lei si è suicidata e io l'ho portata qua. Sì, così lui sta dicendo così adesso, che era già morta, l'hanno trovata, che lui l'ha solo trasferita di posto e poi ha usufruito dei soldi di lei, da. E il motivo quello sarebbe di trasferirla di posto, se tu vedi una persona che è morta, minimo chiami il 113, chiami l'ambulanza per soccorrerla, per vedere se c'è qualcosa che si può fare, ma non è che la porti via, la nascondi, se la nascondi è perché c'è da nascondere qualcosa. E adesso vedremo le indagini, le autopsie. Faranno degli accertamenti, no? Non penso che sia una cosa così. Non penso proprio. Ma conoscendo una persona poi. Lui magari aveva paura anche il fatto che lo incolpassero di nuovo, capito? Perché aveva già commesso un omicidio. Può darsi pure l'abbia fatto per quello, ma mi pare un po' strano. Ma se muore per un problema suo, insomma, anzi. Avevo avvisato, invece questo ha occultato proprio. Sì, ma poi il rischio che uno ha occultando un cadavere non è da poco. No, io non ci credo a quello che ha detto. Come ce ne sono. Non l'hai visto di quello di quell'italiano che in America l'hanno condannato il carcere a vita per un omicidio che poi lui dice che non ha mai commesso. Ed è già 20 anni in galera. Sì, mi sembra che o ieri o avanti ho visto qualcosa, ma avevo già visto qualcosa alle Iene, stanno seguendo quel caso. Sì, anche io l'ho visto lì alle Iene. Anche io l'ho visto alle Iene. In America non si scherza, non lo molla nei cuscini. Questo, non so, non hanno le prove per incastrarlo, però dice che lui c'entra, in ogni caso è colpevole. Allora, la storia è questa qua. Che lui ha fatto un'indagine e praticamente ha scoperto che la polizia aveva fatto qualche intruglio in questa indagine che stava facendo, perché lui era un cameraman, un giornalista, non so, qualche cosa del genere. Cosa è successo? Lui dice che la polizia ha detto che lui si era permesso di andare contro la polizia americana, non so che cosa. Ha preso le fotografie dei figli, le ha strappate e poi le ha sputate, le ha detto che i figli non li avrebbe più visti, capito? Lo stavano ricattando praticamente. È stato così, i figli stanno crescendo, sono già grandi e lui è ancora dentro. Sì, ma ma poi i figli sono andati a abitare in America, visti qua, proprio per stare vicino al padre, vicino a dove c'è il padre, capito? Per seguire la vicenda da vicino, non lo so, sono tutti in America a abitare. Oia, sei innocente, guarda, fare 20 anni di galera innocente deve essere una cosa tremenda, già la galera è brutta quando ne è colpa, ma quando sei innocente deve essere una cosa tremenda, che sentirti colpevole anche se non lo sei. Mi sono tolto la poveraccia, che fine che ha fatto, sarà presa a cuore e ci ha lasciato le penne, la vita. Questo qua mi sembra che si chiama Miami, adesso i figli, non vorrei sbagliare. Lui è abituato, come era un surfista, la vita era un pezzo di cristiano, abituato a vivere proprio, dai. Faceva diversi sport, acquatici specialmente, moto d'acqua, surf, di tutti di più. Era un tipo molto atletico, capito. Però, vedi. È una cosa che non si crede. Quando deve andare male, lui ha parlato male della polizia americana perché ha fatto degli intrusi che lui ha scoperto e li ha messi sul giornale. Quindi la polizia americana, per vendicarsi, dice che ha fatto questo. Lui ha detto così. Tipo nei film, no? Quando ti volevano incastrare, ti buttavano una bustina di roba in macchina e via dentro. Non è solo nei film, anche qua lo fa. Se ti vogliono incastrare ti mettono la droga in tasca e ti dicono che hai trovato la droga, che hai trovato la droga in tasca tua. E va di burino. Io dico come nei film, però purtroppo succede davvero. A uno lo sai cosa gli hanno fatto vicino a casa. La polizia gli aspetta la luce da giù. Lui è sceso a accendere il contattore e l'hanno arrestato. Poi sono saliti su al casa e l'hanno trovato, era lo spacciatore, tubero di droga. Ma da poco? Sì, sarà un annetto fa. No, aspetta un po', ne hanno beccato uno da poco che c'era roba di 15 cani, ma cani grossi, quelli morosi, come si chiamano, i cani tipo pitbull, cose varie. Quindi era praticamente inavvicinabile questo qua. E l'hanno beccato come? Forse proprio per un'interruzione dell'energia. Sono entrati poi a fare dei lavori in casa sua e l'hanno arrestato in quel momento lì. Era uno spacciatore tremendo. Perché hanno tutti questi cani, hanno tutti i pitbull che spacciatori, lo fanno per proteggersi, capito? Sono bastardi. E uno di questi cani non ha morsicato il mio. C'aveva anche la museruola, il mio, perché io lo porto con la museruola? Perché secondo che persona lo sta toccando, gli salta addosso. Se li garba, mi fa le feste, se non li garba, li brinca in alto. Quindi per evitare, io gli stavo mettendo la museruola. E questa ragazza, che tra l'altro lei ha un pitbull, però non ce l'aveva nel momento, mi ha detto: già, perché abbiamo messo la museruola? E così e così, perché è molto diffidente, quando vanno a toccarla a volte gli salta addosso. Beh, non lo stava manco dicendo, gli scappa questo pitbull che ce l'aveva per la maniglia della cosa, della pitturina. Mi è scappato, ha morsicato a Teso nella cuscia, Teso è andato a girarsi, vabbè, c'aveva la museruola, Gulari non ha potuto manco girarsi. Se no magari li avrebbe preso, ma ne l'avrebbe anche dato, non ti preoccupare. E fatto sta che poi l'ha preso per la gola, gli ha morsicato la mandibola, prendeva la gola e l'orecchio. Immaginati che tipo di mandibola c'hanno. Questa ragazza, siccome ha il pitbull, sapeva, il padrone è stato fermo come un guasto, cioè non sapeva cosa fare. Questa ragazza ha preso, gli ha aperto la bocca, è riuscita a aprire la bocca, gli ha tappato il naso e gli ha aperto la bocca. E praticamente è riuscita a liberarlo. L'ho portato al veterinario, ha dovuto mettere i punti, senza poi contare tutto il tempo che ci ha messo a crescere nella coscia tutta la peluria che aveva rasato il veterinario per strutturarlo e farlo. Insomma, tutto l'insieme, mi ha detto che mi dava i soldi, gli ho fatto vedere la fattura del veterinario, 120 euro. Tu datemi, altrettanto lui. Sì, mi ricordo il fatto, in quel periodo ci siamo sentiti in frequenza. Però con la giornata è stato in pan, caspita. Meno male che Margherita qua ha un pitbull, ma un pitbull maromi, di quelli proprio cattivi. Ha detto qua, da piccolo era così bravo quel cane, giocava con un diventato grande, diventato un cane maro, ma no, devi stare un bel attento. Addirittura una volta l'ha buttata là, c'aveva la museruola, si è tolto la museruola di quella con lo strippi strap, ha buttato a lei in terra, l'ha tirata per andare a boscicare un cane, l'ha fatta a pezzi il cane. Quindi non vuol dire il cane educarlo bene, se ne deve uscire male, riesce male il cane così. Lo sai cosa c'è? Che quello lì ce l'hanno di indole. Addirittura avevano detto che proibivano la proliferazione di questa razza qua, e che la proibivano proprio che era fuori legge. Poi non so cosa abbiano fatto, li volevano proibire sia quelli che dopo argentini. Adesso chi c'ha quei cani deve fare il corso, deve avere il patentino, perché se no sono 600 euro di multa se ti fermano. Devono avere il patentino per avere questi cani, per saperli gestire, capito? Sì, ho sentito. Il mio socio, come ti ha detto, c'è un cane corso, però è un bravaccio, anzi anche vecchio poverino. Quando mi vede mi fa le feste, però un po', a volte facile le gambe di dietro. Non so, magari ti fa le feste a te che ti conosce. Bisogna vedere se tra cazzi tu cosa rifazzi. Se rifazzi di peso, non sai che è scappato da campagna sua, di questo mio collega, il cane corso, gli è scappato, è entrato in un'altra campagna ed è arrivato il padrone, cazzo, con un cane tutto canto, con la reci fasciata del suo cane, tutto quanto massacrato, l'hanno dovuto portare alla veterinaria. Dice, ma i suoi cani sono che me l'hanno morsicato. Dice, no, i cani me non sono usciti, cavolo, ha detto che durano il tucato pieno di sangue, l'ha subito pulito per non sgamarlo, perché se no se lo sgamava doveva pagare anche i danni. Capito? È riuscito, salta un bel, ha detto che c'era una rete un bel alta e lui è riuscito a saltare lo stesso. Lo so, il fratello di quello che c'è mio socio, no? Era legato a come si dice? A una catena, perché saltava, ha saltato lo stesso con la catena, ma un muro da oltre 2 metri era, e il cane poi è rimasto appeso e ci ha lasciato le penne il cane, non se ne sono accorti, è rimasto appeso dall'altra parte del muro. Si è strozzato da solo. No, io sono contrario a legare i cani, è la verità, non mi piace il cane legato, però avevo un amico in campagna che ce l'aveva, c'aveva un boxer e un pastore belga che erano abbastanza cattivi e c'aveva una corda da un albero all'altro e c'era stata 4 metri da un albero all'altro e questa catena che scivolava nella corda, loro potevano fare da una parte all'altra della casa, quindi la casa non si doveva avvicinare nessuno. Lì ho visto, anche un mio amico c'era il piliferro, la catena correva con l'anello nel piliferro, si faceva le vasche da una parte all'altra. No, come dici tu però, questi cani, saltava un bel questo cane, quindi ha dovuto per forza mettergli a catena, e andava fuori. Quello del mio collega lo stesso, si è saltato fuori e lo stava quasi abbassando il cane di quello che c'era vicino. Perché quello, lo sai cos'è, quel cane di quello vicino, ogni tanto andava, scappava e andava nella campagna sua. E più di una volta, ed è femmina mi questo qua, non è manco maschio. Figurati di maschi che altro sono mari. No, questi tutti e due maschi erano, due fratelli. Quello del mio collega era femmina, ma è maruro ma stesso. Mi sono spaventato quando l'ho visto tutto pieno di sangue, l'ho subito pulito, fatto. Da poi il giorno dopo è venuto il padrone, ma i cani suoi sono scappati. No, perché? Perché il mio cane l'ho trovato, martoriato, con l'orecchio mezzo staccato, il collo ferito, nella coscia, tutto quanto. E lui c'ha lo stesso Rottweiler. È andata bene, l'ha trovato ancora vivo. E se no il dog argentino non è maro. Quando l'ha caretto, c'ha una testa che ci vogliono due mani per acchiapparlo. Allora, ha detto le razze, quelle più feroci, ha detto dog argentino. Il Pitbull, l'America, l'America Bull, poi ha detto il Presa Canario, e ne ha detto 4 o 5 di razze di quelle cattive. No, questo ripeto, non sembra cattivo, anzi, ripeto, mi fa sempre effetto. C'è una cosa che peserà 10 kg, questa cosa la mando da una parte all'altra, ti lascia delle frustate. Allora, dipende anche da come lo educhi il cane, quello sì, però ci sono dei cani che ce l'hanno di indole brutto, e questi tussi e cose lì, li addestrano a morte, li mettono la camera d'aria sopra gli alberi e loro fanno certi salti, si attacca alla camera d'aria, tu lo puoi tirare quanto vuoi e non si stacca, sta attaccato alla camera d'aria, sospeso nell'aria, però non si stacca. L'ho visto io facendo, li addestrano per mordere, capito? Infatti a uno di questi qui è andato l'amico a trovarlo, l'hanno dovuto portare via l'ambulanza perché il cane l'ha morsicato. Ma io ho visto un sacco di servizi di televisione come li addestrano, per carità, e purtroppo rovinano gli animali. Il cane non deve essere un'arma, deve essere una cosa piacevole. Il cane se morde è un'arma, devi stare attento. Io già con Tyson e lui educato sempre bene, coso, e mi ubbidisce quello che gli dico, coso, però non ama essere accarezzato da strada. E vedi, c'ha la sua parte, il suo lato debole ce l'ha. Ma il cane deve sempre obbedire. Quando invece non sente già è un campanello d'allarme. E poi allora l'altro giorno c'era questo signore, io ero seduto nel davanzale, c'è un'attività commerciale sotto casa, che preferisco non dire cosa sia, un'agenzia funebre, ed ero seduto col proprietario, stavamo parlando, io c'avevo il cane, e questo tipo è andato a prendere la macchina al parcheggio, ho visto la casa, dai che bello, non lo tocchi perché se non conosce la gente subito gli dovrebbe salvarsi, mi dà fastidio anche a me dirlo, però lo dico subito, non lo tocchi perché con gli estranei non è molto bravo, ma io c'ho i cani, a me mi conoscono gli animali, cose, non lo tocchi, gli ho detto, cazzo, come ti sei avvicinato, fa un po' che uno lo sbrana, sono fatti tempo e tempo a tirare. Molti sono convinti, no, che ci sanno fare, che allora i cani non gli fanno mai niente, che gli vengono incontro, però non è detto, possono trovare sempre quello sbagliato. Ma avvisandolo insistono, capito? Se tu avvisi una persona così, mi è antipatico anche a me dirlo, però se tu l'avvisi, uomo avvisato è mezzo salvato, loro dovrebbero capire che non è che tu lo fai per male a dirgli che è morsica. Io, guarda, lo avviso sempre. L'altro giorno c'era una ragazzina con un barboncino piccolino, e lui quando vede i cani piccoli o le femminucce va a giocare sempre perché è molto socievole. E questa ragazza stava per toccare, ho detto ascolta, non lo toccare perché con le persone non è molto mansueto se non le conosce. Se le conosce gli fa le feste, ci sono gli amici miei quando vengono a casa, si va in un brodo di giuggiole quando li vede. Però se non conosce le persone non dà confidenza al nemico. Ma posso interpretare male anche il gesto, capito? Si pongono male molte persone, non lo sanno come bisogna fare con i cani che non conosci. Prima ti devi fare odorare la mano, poi ti devi mettere di fianco e inchinarti di fianco, ti devi mettere allo stesso livello del cane, di modo che il cane sa che tu non lo vuoi sopraffare, capito? E il cane è così, anche quando vede un cane superiore a lui, si sottomette, si abbassa e sta seduto, che praticamente si sta sottomettendo all'altro cane quando fa così. E così devi fare tu. Praticamente il linguaggio del cane è quello, non è che. Invece c'è gente che subito gli mette la mano sopra, mai toccare il cane da sopra, perché il cane, come vede che tu gli stai mettendo la mano sopra, ti azzanna, perché pensa che tu lo stai picchiando, capito? Sì, ma ho visto come si sottomette, addirittura mostrano la parte più debole che hanno, che è la pancia. Cosa? Non ho capito. Molti cani quando si sottomettono mostrano la parte più debole che hanno, la pancia praticamente. Sì, si mette la pancia all'aria, cosa. bisogna seguire, sapere le cose. Io seguo molto, ci sono su internet anche dei filmati di come ti devi comportare col cane, eccetera eccetera. Io me li guardo, anche se molte cose le so, però mi fa piacere vederle, no? Come si addestra un cane, come si fa camminare dal lato sinistro e non farsi tirare dal cane, insomma tutte queste cose. Lui a me mi tira solo se trovo, se sente odore di cani in calore, allora mi tira, diventa scemo. Quello è normale. Però a volte vedo queste signore, vari signori, con questi cani che camminano tutti storti verso un lato, che stanno sempre tirando. Sì, vanno da una parte all'altra, non sono stati educati da piccoli, E ci sono cani che si trasferiscono da una parte all'altra, non ti fanno gestire, capire, fanno un po' da una parte, un po' dall'altra, il cane deve camminare sempre da una parte. Se tu li segni a destra, cammina a destra, se li segni a sinistra, cammina a sinistra. Non si deve spostare. No, proprio il guinzaglio, il tira, e loro, tu vedi con queste zampe tutte storte, loro camminano proprio in diagonale, cioè, obliqui camminano. Ehi, sembra che sia il cane che porti il padrone. Ecco la cavolo adesso. Secondo me un cane deve tirare, cioè, non riesce a insegnarli che non deve tirare, boh. Ci sono quelli prepotenti, poi. Il mio già c'ha un bel caratterino, mamma mia. Mio ha un bel carattere, è molto autonomo. Io adesso me ne devo andare, dai, devo andare a dargli, a proposito, devo dare la pastiglia, l'antibiotico, che sta facendo gli antibiotici, che ha un problemino, la prostata, qualcosa che ha la prostata che praticamente gli fa perdere sangue, e gli sto dando questo antibiotico per farglielo passare. È una ciste prostatica, dai, o qualcosa del genere. Poverino, dai, grazie. Più o meno come noi, anche l'uomo soffre di queste malattie qua, anche lui ne sta soffrendo, poverino. Speriamo bene, dai. Dai, una bella chiacchierata, sono già le 8:20. Un abbraccio e alla prossima, ok? Ciao. Ciao Fra, grazie per il questione, ci sentiamo, buona serata. Ciao. Altrettanto, ciao.